Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, in questo mercoledì che precede il giovedì, il venerdì, il sabato santo, quindi la Pasqua, una festa massima per chi è religioso, una festa comunque per tutti, e allora noi facciamo festa pure e lo facciamo naturalmente seguendo le orme di Rodari con le sue filastrocche e le sue canzoni. Ho fatto Torino in bicicletta, dove corri con tanta fretta, vado a portare una lettera espresso, arrivata proprio adesso. Ho fatto Torino, corri diritto, nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto mamma non stare in pena se non ritorno per la cena. In prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto col gesso, con un pezzetto di gesso in mano, quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città, vogliamo pace e libertà, ma di una cosa mi lamento, che sull'anno non ho messo l'accento. Perciò ti prego, per favore, va tu a correggere quell'errore, un'altra volta, mammina mia, studierò meglio l'ortografia. Freedom for your daddy's daddy, freedom for your mama's mama, freedom for your brothers and sisters, but no freedom. Gatto professore. Un gatto di nome Valentino voleva insegnare l'inglese a un topolino. Preparò la grammatica, il formaggio nella trappola e si mise ad aspettare che il tipo ci venisse a cascare. E intanto che aspettava, cantava e ricantava: Topolino, corri in fretta, la lingua inglese è qui che ti aspetta. Il topolino squittì e rispose così: Non posso venire, parola d'onore, mi piace la lingua, ma non il professore. Una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, da una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Terza classe sulle panchine, ci sono operai, soldati e vecchine, c'è una furba contadinella che ha nel cestino una gallinella, una gallina ed un galletto che viaggiano senza biglietto. Seconda classe c'è un signore e un commesso viaggiatore che ai compagni di viaggio fa la reclame del suo formaggio. Prima classe il passeggero e un miliardario forestiero. Italia bella, io comperare quanti dollari costare? Ma il ferroviere pronto e cortese, noi non vendiamo il nostro paese, ma il ferroviere pronto e cortese, noi non vendiamo il nostro paese, noi non vendiamo il nostro paese. Non è pesante la valigia dell'emigrante, c'è un po' di terra del mio villaggio per non restare solo in viaggio, un vestito, un pane, un frutto e questo è tutto, ma il cuore non l'ho portato nella valigia, non centrato, troppa pena aveva a partire, oltre il mare non vuol venire, lui resta fedele come un cane nella terra che non mi dà pane, un piccolo campo proprio lassù, ma il treno corre e non si vede più. Siamo in tanti sul treno, occhi stanchi, ma nel cuore sereno. Dopo tanti mesi di lavoro mi riposerò dietro quella porta, le mie cose io ritroverò. La mia lingua sentirò, quel che dico capirò. Riposa, al mattino sai di avermi vicino, apri la valigia, c'è il vestito che sognavi tu, guardati allo specchio, tu sei bella, non levarlo più. Nostalgia che passa e va, fino a quando durerà. Andar via, non chiamarmi, io non posso voltarmi, porto nel mio sguardo la mia donna e tutto quel che ho, torno verso occhi sconosciuti che amar non so. stavolta chi lo sa, forse l'ultima sarà. Carnevale. C'era una volta un cappello senza testa. Passeggiava sul corso in un giorno di festa. Oltre che senza testa, era anche senza pancia. Senza piedi e senza mani, passeggiava in corso Francia. La gente lo chiacchierava. «È scappato dalla vetrina! Certo, è un cappello ladro! Portatelo in guardina!» «Calma!» disse il cappello. «Oggi ogni scherzo vale!» Dal bambino rimasto in città, chi va al mare a vita serena e fa i castelli con l'arena, chi va ai monti fa le scalate e prende la doccia alle cascate, e chi quattrini non ne ha, solo solo resta in città. Si sdraia al sole sul marciapiede, se non c'è un vigile che lo vede, e i suoi battelli sottomarini fanno vela nei tombini. Quando divento presidente, faccio un decreto a tutta la gente, ordinanza numero uno, in città non resta nessuno. Ordinanza che viene poi, tutti al mare, paghiamo noi. Inoltre le Alpi e gli Appennini sono donati a tutti i bambini. Chi non rispetta il decretato va in prigione di filato. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va. Ho conosciuto un tale di Alfonsine, che invece di andare al cinema, andava sempre al cine. Se si metteva in viaggio per far visitare gli amici, lui invece della bicicletta prendeva la bici. Voleva un frigorifero e al negoziante spiegò: mi dia soltanto un frigo e qualcosa risparmierò. Ma rimase meravigliato, anzi restò di gesso, perché il frigo e il frigorifero costavano lo stesso, costavano lo stesso, costavano lo stesso, costavano lo stesso, costavano. Porte casuno con uno stemma reta, una cuppulella che vi si era alzata, passa scampagnando una pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camella, la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa, ok napulitan. Tu fa l'americano, tu fa l'americano, tu fa l'americano, tu fa l'americano. In Italy, senta a me non c'è sta niente a fa, ok napulitan, tu fa l'american, tu fa l'american. Wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, tu fa l'american, tu fa l'american. Wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll. Io so i colori dei mestieri, sono bianchi i panettieri, s'alzano prima degli uccelli e hanno la farina nei capelli, sono neri gli spazzacamini, di sette colori sono gli imbianchini. Gli operai dell'officina hanno una bella tuta azzurrina, hanno le mani sporche di grasso, i fannulloni vanno a spasso, non si sporcano nemmeno un dito, ma il loro mestiere non è pulito. Io so gli odori dei mestieri, di noce moscata, sanno i droghieri, sa d'olio la tuta, dell'operaio di farina, sa il fornaio, sanno di terra i contadini, di vernice gli imbianchini, sul camice bianco del dottore, di medicine c'è un buon odore, i fannulloni strano però non sanno di nulla e puzzano un po'. Yellow is the color of my true love's hair in the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Blue is the color of the sky in the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time, that's the time, that's the time, that's the time I love the best. Green is the color of the sparkling corn in the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time, that's the time, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her, mm-hmm, when I see her, mm-hmm, that's the time, that's the time, that's the time, that's the time I love the best. Quando è bianco lo spazzacamino, un poco alla festa, un poco al mattino, tutto il giorno se ne va, per paesi e per città, in casa dei ricchi e dei poveretti, su per le cappe e per i tetti, con le mani e con i ginocchi di bianco gli resta il bianco degli occhi, il bianco degli occhi. Quando è bianco lo spazzacamino, un poco alla festa, un poco al mattino, tutto il giorno se ne va per paesi e per città, in casa dei ricchi e dei poveretti, su per le cappe e per i tetti, con le mani e con i ginocchi di bianco gli resta il bianco degli occhi, il bianco degli occhi, il bianco degli occhi. Quando è bianco lo spazzacamino, poco alla festa, poco al mattino, tutto il giorno se ne va, per paesi e per città, in casa dei ricchi e dei poveretti, su per le cappe e per i tetti, con le mani e con i ginocchi di bianco gli resta il bianco degli occhi, il bianco degli occhi, il bianco degli occhi, il bianco degli occhi. Thank you.